A tempo di sport con Claudio Arrigoni. Il calcio anche in questa domenica, dove non si gioca ma si parla tanto di calcio, ma poi naturalmente il moto mondiale, il tour, dove sono in 5 quando mancano 5 al comando, quando mancano 14 chilometri all'arrivo di questa tappa, una tappa abbastanza interlocutoria. Non solo, parleremo anche di Olimpiadi. Claudio Arrigoni per Radio 24 con Margherita Ina in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Naturalmente i nostri numeri per mettersi in contatto con noi: 800 24 00 24, il nostro numero verde, 349 238 6666, invece per i vostri messaggi. Prima di andare a parlare di moto mondiale con l'ennesima vittoria per Lorenzo, ma bene, Valentino Rossi non è salito sul podio, non per moltissimo, quinto posto per lui, bene Dovizioso. Ne parleremo fra poco con la voce dei motori in Italia, che ci onora del fatto di essere con noi a Radio 24, Mario Portornieri. Ma il calcio, per cominciare con squadre che si sono radunate, ma ancora mancano dei tasselli. Naturalmente il calciomercato vive in questi momenti della vicenda fra Ibrahimovic e il Paris Saint-Germain, accordo che è vicinissimo, già domani forse l'annuncio, addirittura la presentazione di Ibrahimovic al Paris Saint-Germain. Oggi ha parlato Lucio per la Juventus, Juventus che punta ancora agli obiettivi naturalmente per l'attacco, in particolare a Jovetic è l'obiettivo principale, è giovane e la cosa più importante, costa meno di Van Persie. Inter invece, che dopo aver perso Paulinho, centrocampista del Corinthians, che ha deciso di rimanere in Brasile un altro anno, deve decidere invece cosa fare riguardo all'attacco, e quindi punta su Lucas, attaccante del San Paolo, ma ci vogliono 37 milioni, non cosa da poco in questo momento. Vi dicevo, ha parlato Lucio poco fa al ritiro della Juventus, sentiamo uno stralcio di quello che ha detto. Io sono uno che come ha detto, sempre dove vado provo di impegnarsi al massimo per difendere la colore della mia squadra. Io oggi il mio colore è bianco e nero. Ti sei fatto un'idea sugli scudetti? Per te sono 28 o 30 quelli che ha la Juventus? Io penso che la stessa idea che ha detto il presidente. E se dovessi fare un gol all'Inter, esulterai? Come ha detto prima, adesso difendo la Juve e la mia squadra, e sicuramente che per me è una situazione normale e esulterei se non è un problema. Eh sì, non c'è motivo di non esultare, fa benissimo Lucio a dirlo, e si mette in riga con quello che ha detto Andrea Agnelli in settimana, proprio riguardo a scudetti, riguardo alle tante polemiche che ci sono state. Non stiamo a tornarci sopra, certo è che con Lucio sicuramente la Juventus si è molto rafforzata, e l'Inter invece deve cercare qualche sostituto. Ma andiamo a parlare di moto mondiale, perché si è concluso da poco il Gran Premio del Mugello. Allora, Mario Poltornieri, buongiorno. Ciao Mario, buon pomeriggio. E alla fine, dai, è stata una gara divertente, è stata una gara in cui abbiamo ritrovato un po' anche Valentino, ma partiamo da chi ha vinto, come è giusto che sia, Jorge Lorenzo. Diciamo, permettimi una prima considerazione: un circuito così bello non si vede quasi mai in televisione. No. È direi il più bel circuito che c'è in questo periodo, cioè, lasciamo perdere quelli di Formula 1 piatti fatti dall'architetto Tilke, che è amico di Eccleston, quelli non li consideriamo nemmeno, ma questo è un circuito che per la velocità che consente, per la difficoltà delle curve, Paris Alessandri, è senza dubbio esemplare, interessantissimo, e oggi con le moto naturalmente, che sono poi molto spettacolari, fatto ancora più interessante. La gara, diciamo, è piaciuta, ma soprattutto ha consentito alcune considerazioni. La prima, e non mi ero mai accorto che Lorenzo si irritasse come si è arrabbiato ieri perché la moto ha ceduto nell'ultimo giro quello che gli sarebbe servito per la pole position. Infatti oggi, quando è arrivato, ha festeggiato in modo particolare. Quindi vuol dire che Lorenzo è impegnatissimo. Diciamo che la sua moto va sicuramente bene, ma la prova che oggi lui voleva fare qualcosa di più è che non ha adottato la solita tecnica, lasciare andare via Pedroso, Stoner e poi rimontarli nella seconda parte della gara. Alla prima curva aveva già attaccato Pedroso e se n'è andato. Sì. Pedroso bisogna riconoscere però che in questa fase di campionato è cresciuto, è più convinto di avere delle possibilità di competere. Quanto a Stoner, io sono fermamente convinto che quando lui ha dichiarato che l'anno 21 si ritira, e questo ha messo un'inclinatura nella sua fermezza di competere ai limiti, tant'è vero che oggi ha fatto un lungo, come la volta scorsa era accaduto, che lo hanno portato a 37 punti da Lorenzo, e vuol dire un distacco. Ricordiamo naturalmente anche la classifica mondiale, hai ragione Mario, Lorenzo 185, Pedroso 166, Stoner 148, Dovizioso 108, continua a mettere lì un po' di punticini con tutti questi podi che comunque riesce a raggranellare. Scusami se ho interrotto, ma era giusto la classifica. Certo, beh, ma hai toccato appunto anche il discorso di Dovizioso, che si è trovato, tra l'altro, il compagno di marca, fastidioso, che è Cresso, che lo induce ad andare ancora più forte, perché Dovizioso in questa stagione sta crescendo bene. Non voglio ricordare, anche se in questa occasione ancora una volta si è pensato a Marco Simoncelli, ecco, ma Dovizioso, con un carattere e una tecnica di guida e un comportamento sostanzialmente diversi, ma però sta cercando di prendere appunto il posto dell'uomo di punta nella squadra e nel team italiano, tenendo presente che purtroppo il motociclismo ormai parla frequentemente, se non solamente spagnolo. Ma però diciamo che ci sono i giovani che crescono sotto questo profilo. Ricorderei proprio il secondo tempo di Finati e il quarto di Antonelli nella Moto 3 e il risultato eccezionale, direi, di Iannone nella Moto 2. Quindi sta crescendo, può continuare, ecco, questo discorso. Per il resto la gara sì è stata divertente, ma purtroppo si capiva già come stava andando dai primi giri. Semmai è interessante vedere che cominciano a esserci i discorsi su che cosa succederà nella prossima stagione, perché il ritiro di un uomo di punta come Stoner scardina un po' tutti i meccanismi. Adesso si parla dell'ipotesi che Valentino ritorni alla Yamaha. Anche se lui ha detto parlo da uomo Ducati, quindi vabbè, però sì. Sai, la Ducati, tra l'altro, non sono venute notizie precise in proposito, quindi non possiamo dire niente, ma l'acquisizione da parte di una azienda seria e appassionata di velocità come l'Audi può rappresentare qualche cosa di interessante. Sì, indubbiamente. Non bisogna mai dimenticare che l'Audi, che non corre in Formula 1, perché ricordando le parole di Piëch, del presidente factotum, eccetera, eccetera, noi non correremo mai in Formula 1 perché noi vogliamo correre con le automobili che sono utili per la serie. Noi andiamo a correre con le 24 ore, andiamo a correre in America per dimostrare che noi consumiamo, andando più veloce, un terzo di quello che consumano le vetture americane, che non era un modo, diciamo, il migliore per presentarsi in pubblico, però insomma, quindi sì, sicuramente c'è questo problema, cioè di chi affiancare a Lorenzo. Per il resto Pedroso dovrebbe trovarsi questo Marc Márquez, che oggi è arrivato solo quinto, ma che potrebbe essere il 19enne spagnolo, fortissimo anche lui, potrebbe essere l'uomo nuovo, diciamo, un po' di ricambio ci dovrebbe essere. Quanto a Valentino, ecco, su Valentino magari ci arriviamo fra pochissimo, perché adesso ci fermiamo solo un attimo, come sai bene, per il traffico. Intanto aggiornamento dal Tour con Sanchez, che ha portato a 22 secondi il proprio vantaggio. Mancano poco più di 5 chilometri. Sanchez che ha in mano la tappa. Un sms che è arrivato al 349-238-6666 per Mario Poltronieri. Vi ricordo anche il nostro numero verde per mettersi in contatto con noi, 800-24-0024. Mario, dice il nostro ascoltatore, ma io devo ancora capire come mai complessivamente Hayden va più forte di Rossi e non solo, comunque l'americano è più veloce, e stavi entrando proprio nel discorso di Valentino prima del traffico. Sì, sì. Ma sai, il problema di Valentino è che ha avuto evidentemente la fortuna di poter disporre sempre di motociclette di altissimo livello alle quali lui si adattava. La Ducati, anche se poi è stata modificata nel corso degli anni, è comunque stata una moto piuttosto difficile. Infatti il primo che è riuscito a ottenere grandi risultati è quel fenomeno di Stoner. Stoner rientra nella categoria di quei piloti che qualsiasi giornottami gli danno riesce a portarlo al limite. Valentino è, diciamo così, più raffinato. Evidentemente la costruzione globale del telaio, del motore, eccetera, della Ducati non è entrata immediatamente in sintesi col personaggio. Allora, nel cercare di trovare delle soluzioni, si continuano a fare degli esperimenti che evidentemente fanno però perdere tempo e non consentono di essere competitivi. Oggi non è andato male, perché è partito decimo, è arrivato quinto, 11 secondi al primo, quindi è già una cosa tollerabile. Il problema, lui stesso l'ha ricordato a un certo punto, è che appunto mettersi in sintonia con la moto tra la partenza e l'arrivo è difficile. Oggi avevo le gomme che non andavano bene all'inizio, poi sono andate bene, e qui possiamo fare un'auto su questo fatto che i pneumatici ormai sono determinanti. Sì. Sia tra l'altro l'ho detto anche moto. Pedrosa proprio nelle dichiarazioni del dopogara, sì. Insomma, sì. Sono determinanti, sì. Sono, sì. E mi viene sempre da ridere perché vengono considerati gli accessori. Esatto. Va bene, Mario, grazie. Grazie. A naturalmente te, ci ritroviamo fra 15 giorni, perché c'è Laguna Seca fra 15 giorni. Però parleremo in pre, visto che Laguna Seca sarà nella tarda serata per l'orario italiano. Parliamo adesso, prima di parlare di Olimpiadi, volevo far sentire le dichiarazioni del dopogara di Dovizioso, perché Dovizioso è andato bene ed è giusto che sia contento di questo terzo posto. Sinceramente ci credevo all'inizio, ho detto dai, ci provo, però Lorenzo ne aveva di più in gara, è stato bravo semplicemente a fare quello che avevamo già visto nelle prove. Peccato, ci credevo davanti al pubblico italiano, al Mugello ci tenevo, ma era impossibile. Possibile, sì, beh, il podio è sempre importantissimo, il podio del Mugello è uno dei tanti sogni di qualsiasi pilota, quindi esagerato. Speravo qualcosa di più, ma stiamo lavorando bene. Sì, stiamo lavorando bene, dice Dovizioso, terzo posto ottimo per lui, ma voltiamo pagina, perché parliamo di Olimpiadi, non tanto di podi in questo caso o di gare, ma come vedremo in Italia Olimpiadi, perché è vero che c'è stata un'anteprima per quanto riguarda i giochi invernali di Vancouver, ma il vero banco di prova è quello di Londra per i giochi estivi. L'Italia è uno dei paesi al mondo dove meglio si vedranno le Olimpiadi e conseguentemente anche le Paralimpiadi a settembre, perché saranno addirittura due le televisioni che le proporranno: una è Sky, che proporrà completamente tutta l'Olimpiade, l'altra è la Rai, che avrà una parte naturalmente sostanziosa e importante di questa Olimpiade. Qui non vogliamo fare uno spot né della Rai né di Sky, vogliamo capire meglio come vedremo queste Olimpiadi. Allora ascoltiamo, prima di ascoltare anche Sandro Fioravanti della Rai, ascoltiamo Giovanni Bruno, direttore di Sky, per quanto riguarda l'evento olimpico, per capire meglio come vedremo queste Olimpiadi. Giovanni, buongiorno, buon pomeriggio, so che ti sei fermato in macchina. Sì, rientravo da una corsa di biciclette. Ah, fantastico. la mia mania, quindi. No, immagino, a proposito di corse di biciclette, sai che naturalmente tu sei sempre molto attento al tour. Sanchez è lanciato verso la vittoria di questo tour, ma poi noi approfondiremo tutto questo con Pier Augusto Stasi. Dicevo, Giovanni, allora, come vedremo queste Olimpiadi, poi sentiremo anche la parte Rai con Sandro Finanti, quindi naturalmente te lo chiedo, non è che vogliamo fare uno spot né dell'una né dell'altra televisione, ma vogliamo capire un attimo meglio come sarà questa grande novità di questa Olimpiade estiva che si vedrà su più reti. No, beh, intanto la cosa importante è che chi non riesce a venire a Londra a vedere un'Olimpiade dal vivo, che tu sai che è una cosa meravigliosa sotto tutti i punti di vista, emozionante, bella, piacevole, la trasformazione di una città, ovviamente rimane il divano di casa oppure la sedia a sdraio sotto l'ombrellone, visto che si potrà vedere. Che non è male comunque. No, assolutamente, ci mancherebbe. Divano di casa con aria condizionata, accendendo Sky, in questo caso puoi vedere ben 12 canali in alta definizione, quindi tutti quanti in HD, e un 13° canale per la prima volta in assoluto in 3D. Allora, in 3D vuol dire, diciamo, in tre dimensioni, vuol dire ci sono alcune discipline che sono state riprese, hanno già fatto delle prove eccellenti, perché certamente il prodotto non è facile, e se posso consigliare qualcosa, assolutamente i tuffi, è qualcosa di meraviglioso e affascinante, sembra che si tuffino dentro casa tua, ecco, insomma, questo è un pochino il concetto. Sono 260 ore di 3D, il resto complessivamente si potranno vedere totale quasi 2000 ore di trasmissioni olimpiche, quindi tutto in diretta, tutte le medaglie. Ci sono dei canali specifici, e questo è molto importante, perché ci sarà un canale basket, un canale volley, un canale pugilato, un canale calcio, insomma si trasmetterà tutta la scherma possibile e immaginabile, tutto il nuoto, tutta l'atletica, e poi c'è come punto di riferimento, uno può prendere così a metro, il canale Olimpiade 1 HD, e qui, e tu sai perfettamente che quanto è complicato, abbiamo tolto il calcio dal canale, dal numero 201. Sì, immagino che non sia facilissimo. Ecco, no, assolutamente, e ci sarà invece Olimpiade 1, Olimpia 1, quindi un canale, da lì in poi tutta la numerazione, che è 201, 2, 3, 4 e via di seguito fino a 12, e però all'Olimpia 1 ci sarà praticamente dove il meglio di tutti gli azzurri, il meglio di tutte le gare, ecco, insomma, un pochino, però la cosa importante è questa, e Claudio qua mi puoi capire benissimo, cioè noi seguiamo una gara, però contemporaneamente possiamo interrompere sul canale 1 quella gara per andare su un'altra gara che segna la medaglia, ma quella gara che interrompiamo prosegue su un altro canale di riferimento. E quindi, Giovanni, tu dicevi, ma chi non può venire a Londra, però a questo punto io starei francamente in poltrona, perché non perdo niente. Senti, c'è un ascoltatore che ha chiamato l'800240024 che voleva farci una domanda, vediamo se tu riesci a districare un po' questi dubbi che ha Luciano da Firenze. Buongiorno Luciano. Buongiorno, grazie di avermi fatto chiamare. La mia curiosità è forse prolissa, o forse contrasta un pochino con gli entusiasmi così diffusi sull'evento olimpico. Mi incuriosisce sapere quanti siano gli atleti italiani che partiranno, quanti siano gli accompagnatori di vario genere e quale sia il budget previsto per questa bella spedizione. Allora, su budget previsto e accompagnatori siamo un pochino latitanti, sugli atleti, sugli atleti lo sappiamo. Giovanni, vuoi dare un po', districare allora, un po' il nostro ascoltatore? Allora, gli atleti sono 292, questa è la spedizione, che è leggermente inferiore a quella di Pechino. A Pechino c'era una squadra in più e quindi di conseguenza Una squadra fa tanto in questo caso, sì. Una squadra fa tanto, sì. Mentre 292 è un buon numero di accompagnatori, allenatori e via di seguito, diciamo, facendo dei numeri saranno un altro centinaio, e riguardo al budget francamente non ho la più pallida idea. Questo qui non lo so, non però... ci addentriamo. Diciamo che Petrucci ha orientativamente chiesto di raggiungere almeno superare queste 25 medaglie. Oggi un'agenzia inglese ce ne accredita 26 medaglie, insomma direi che in base ai campionati del mondo diciamo fatti nelle stesse discipline possiamo arrivare anche a superare 30. Però sai, tu sai meglio di me che qui sono proiezioni e previsioni, l'Olimpiade è sempre una cosa abbastanza particolare, quindi di conseguenza possono uscire nomi nuovi e possono non uscire i nomi previsti. Assolutamente, le Olimpiadi sono questo. Per chiudere, Giovanni, so che avete anche dei nomi straordinari per quanto riguarda invece coloro che commenteranno, oltre ai vostri commentatori abituali, da Flavio Tranquillo a Fabio Caressa, che sentiremo in versione inedita, eccetera, ma avrete anche dei nomi straordinari per quanto riguarda i commentatori tecnici. Vedi, abbiamo cercato, non avendo noi una grande memoria storica come lo ha la RAI, giustamente, diciamo, e neppure tanto allenamento su molte discipline, abbiamo cercato proprio di fare cassa di risonanza con dei nomi molto importanti, quindi nella canoa Antonio Rossi, Yuri Checchi nella ginnastica, Fabrizio D'Ottavio in quella ritmica, poi insomma, non so, Mario Cipollini, Maurizio Fonders e Giovanni Lombardi nel ciclismo, Fiona May, Stefano May e Stefano Baldini nell'atletica leggera, Cristina Chiuso nel nuoto, Fabio Caressa è una cosa un po' particolare, ma è Fabio Caressa perché... che per chi non ha Sky commenta solitamente i posticipi di calcio, quindi certo, le partite più importanti del calcio. Ecco, invece Caressa commenterà il nuoto perché ci sembrava giusto che una voce molto conosciuta in ambito Sky fosse cassa di risonanza con la prima disciplina che entra in certo, gara molto importante, quindi il nuoto, quindi molto riconoscibile. A questo poi altri personaggi, insomma, tu hai citato Flavio Tranquillo, ma a fianco a Flavio Tranquillo ci sarà Ettore Messina, quindi uno dei più grandi allenatori in assoluto del basket. L'abbiamo avuto ospite ieri proprio qui a Radio 24. Va bene, Giovanni, grande personaggio. Grazie, ti lascio solo dicendoti che Sanchez sostanzialmente ha vinto la tappa per distacco. Sagan ha perso una bella occasione in questo caso al Tour de France. Grazie Giovanni. Grazie mille Claudio. Grazie, e stiamo cercando un po' di capire come vedere meglio questa Olimpiade in Italia, cambia rispetto al passato, anche se c'è stato un assaggio a Vancouver 2010, senza fare spot per le nostre televisioni, ma abbiamo parlato di Sky che trasmetterà l'Olimpiade, ma naturalmente non mancherà la RAI. Sandro Fioravanti, buongiorno, buon pomeriggio, vice direttore della RAI, ma soprattutto responsabile del progetto olimpico. Sì, ciao, buonasera. Buonasera Sandro. Abbiamo detto Sky, naturalmente per chi ha l'abbonamento, per chi può pagare, per chi può vedere, non mancherà la RAI. No, assolutamente no, Claudio. Non solo non mancherà la RAI, ma non mancherà neanche la possibilità di vedere tutto quanto sarà rilevante. Ho sentito Giovanni Bruno poco fa, caro amico, nostro ex direttore. Fra l'altro ex direttore RAI, esattamente. Nostro, non proprio nostro, di Rai Sport, insomma, quindi è una persona a cui siamo molto legati. Giovanni chiaramente avrà il suo bel da fare con telecronisti meno avvezzi, no, di quanto non possono essere. Abbiamo sentito costantemente. Sì, no, ma infatti lo dichiarava perché è un fatto, come dire, inevitabilmente dichiarabile. Per noi il problema sarà inverso, avremo qualche limite contrattuale che ci impedirà di essere come avremmo voluto o come avrebbe potuto essere un servizio pubblico rispetto a un accadimento di rilevanza assoluta e di interesse generale come l'Olimpiade, ma certamente non mancheremo di raccontare tutto quanto è rilevante in ambito olimpico, questo dalla cerimonia di apertura che sarà su Rai 1 in diretta con un amplissimo pre rispetto al darsi di questo momento importante, e poi nel corso di ogni giornata saremo in onda di fatto fra le 12 e le 13 ore al giorno, mancheremo dagli esordi del canottaggio, il 2 di coppia, il primo a entrare in acqua, a quelli delle qualificazioni del tiro all'arco, fino ovviamente a quello che sarà nella tarda serata delle prime settimane, della prima settimana, quindi dal pugilato a probabilmente alcune partite di beach volley e al resto, e ovviamente nuoto, atletica e quant'altro. Quindi non mancherà nulla, non mancherà nulla naturalmente per quanto riguarda gli azzurri, non mancherà nulla per quanto riguarda tutte le parti salienti di questa Olimpiade. Sandro, come vi state preparando anche proprio riguardo alle scelte, perché dovrete farne, no? Per poter essere sugli avvenimenti più importanti. Guarda, come faceva Teni per lo slalom, perché non a caso dico Teni, perché sarà uno slalom e non abbiamo i pali snodati, quindi cercheremo di evitare di farci del male. No, ci stiamo preparando avendo un piano dettagliato al minuto di quello che è già certamente sul piatto. Ci sono ancora delle variabili, non abbiamo ancora per esempio le collocazioni nei diversi pesi dei pugili italiani, quindi possiamo sapere in quale range orario saranno, se tardo pomeriggio, addirittura tarda serata, non sappiamo ancora esattamente dove saranno, lo stesso per il beach volley. Per il resto è chiaro che io so già che il giorno in cui avrò la finale di 200 tiri libero di Federica Pellegrini avrò al contempo la finale per il fioretto femminile. Sono tra l'altro, come dire, sovrapposizioni ormai abbastanza consuete, perché il programma olimpico da parecchio non cambia, salvo quanto accaduto a Pechino, non so, con il nuoto, la finale del basket che è andata a sostituire la maratona che per tradizione chiudeva, no, i giochi in virtù delle richieste dell'NBC americana. Va bene Sandro, quindi buon lavoro naturalmente anche alla RAI, abbiamo cercato di capire bene come funzionava, ti chiedo solo per chiudere un flash anche per quanto riguarda i vostri uomini di punta che saranno all'Olimpiade, Sandro. Ma i nostri uomini di punta sono quelli che ormai di consueto commentano le discipline che noi seguiamo dai campionati italiani agli europei e mondiali, per cui da Tommaso Megarozzi che veste i panni del narratore del nuoto a ovviamente Franco Bragagna per quanto riguarda l'atletica e via via tutto il resto, Calcagno per la scherma, ma insomma i nomi sono una consuetudine per chi, come dire, e voglio aggiungere questo e tu puoi capire bene perché Claudio, che per noi la Paralimpiade che seguirà l'Olimpiade sarà un altro accadimento di pari livello, non a caso abbiamo voluto con forza che ci fossero le prime voci delle discipline. Tommaso Megarozzi resterà il telecronista nella postazione cronaca del nuoto, non ci sarà Bragagna ma ci sarà Luca Di Bella che ha visto i panni del cronista anche nel mondiale di Daegu, quindi assolutamente. No, ti ringrazio di averlo ricordato, io l'ho detto all'inizio poco prima in fase di presentazione, sia la RAI ma naturalmente anche Sky ma naturalmente la RAI come servizio pubblico giustamente sarà presente a questa Olimpiade, ma in particolare sarà presente alla Paralimpiade, questo mi sembra una scelta estremamente importante sotto tutti i punti di vista. Grazie Sandro Fioravanti. Ma figurati, grazie. E lì non avremo limiti Claudio. Bene. Quindi saremo aperti con zone miste, interviste e tutto quanto sarà possibile fare per mandare quell'accadimento rilevante. E sarà molto divertente. Grazie Sandro Fioravanti, ti lascio alle riunioni naturalmente preolimpiche. Claudio Arrigoni per Radio 24, 800 24 00 24, il nostro numero verde per chiamarci. C'è Margherita Ina in regia, Roberto in redazione, Roberto Scaltritti in regia. I vostri messaggi SMS al 349 238 6666. Abbiamo parlato di Olimpiadi, abbiamo visto come vedremo queste Olimpiadi su due canali addirittura, Sky e Rai, ma rimaniamo in tema Olimpiadi mentre fra poco andremo ad approfondire quello che è successo al Tour de France con Sanchez che ha vinto per distacco questa 14ª tappa. Sagan ha vinto la vorata per il secondo posto, incassando anche punti importanti per la maglia verde. Impressione comunque è che Sanchez abbia attaccato mentre Sagan era all'ammiraglia per rifornirsi. Andremo ad approfondire tutto questo fra poco con il nostro inviato al tour Piero Augusto Stagi. Adesso rimaniamo in tema Olimpiadi, ma lo facciamo in una maniera un po' diversa. Perché? Perché abbiamo qui in studio Vito Arena, un designer argentino che però si interessa anche di sport, lo fa in una maniera anche un po' strana, perché torniamo un po' alle origini dello sport. L'Olimpiade è il massimo per quanto riguarda lo sport, per quanto riguarda uno sportivo, ma ci sono dietro dei valori molto importanti. E allora tu che cosa fai? Vito Arena, che è qui con noi in studio a Radio 24. Grazie mille Claudia di questo invito, della possibilità di raccontare che cosa faccio nella vita e perché voglio andare a Londra durante le Olimpiadi. Come dicevi, ho questa mia visione che vorrei portare a Londra durante le Olimpiadi per coinvolgere le persone, tutti quelli che saranno presenti, e ricordare che storicamente le Olimpiadi nell'antica Grecia duravano 7 giorni e per 7 giorni se vivevano i giochi olimpici e si fermavano le guerre. Questo è il messaggio che vorrei trasmettere tramite una performance che vorrei sviluppare durante le Olimpiadi a Londra, tempo permettendo, sicurezza e anzitutto grazie alle persone che potranno partecipare in modo volontario, cioè creare il primo brasso olimpico dell'istoria a Londra, essendo Londra la capitale storica dove c'è il mondo, no? Quindi perché no tentare di invitare queste persone e ricordare questo, cioè durante le Olimpiadi giochiamo, ma anzitutto i protagonisti sono le persone. Abbraccio olimpico vuol dire, tu l'hai già fatto nel calcio questo abbraccio futbolero, lo chiamavi, esatto. E cosa vuol dire abbracciarsi, dove e come? Bene, tutto è nato nel 2010 a pochi mesi della Coppa FIFA Sudafrica 2010, quando nella mia testa sono tornato alla mia infanzia e mi ero reso conto che per la prima volta si giocava il calcio, la Coppa FIFA in Sudafrica. Nasce questa storia di creare i miei personaggi, i 32 nazionale per questa bellissima gara di calcio. E a seguito, dopo questo mondiale di calcio, mi rendo conto che mancava un pezzo tra i miei personaggi, cioè come unirle. E lì è che nasce l'abbraccio futbolero, cioè unire. Unire che, in che senso? Ma l'abbraccio è il gesto più nobile e più sincero tra le persone e mi sono detto perché no? E allora l'anno scorso in Argentina, nella provincia di Jujuy, durante la Coppa America, dove si radunavano tutti i sudamericani per giocare una sorta di europei di calcio, ho avuto la possibilità di realizzarlo per la prima volta nell'istoria, ovvero ho invitato in modo volontario a tutte le persone che volevano partecipare a radunarsi intorno a questo stadio di calcio che simbolicamente è la culla dello sport, del calcio. Bene, per la mia grandissima sorpresa e soddisfazione, io pensavo che sarebbero venuti poche persone e grazie alla radio, e guarda caso come la storia ci trova ancora oggi a parlare alla radio qui di questo, radio. Mi sono trovato che il mio invito era rivolto a tutti i cittadini. Pensavo che sarebbero venuti 30, 20, 40 persone. Bene, quando sono arrivato a questo evento il giorno 29 giugno, quindi un anno fa in circa, mi sono ritrovato con 1500 persone intorno a questo stadio, in questa bellissima città di Jujuy. E chissà quanti ne troverai allo stadio olimpico di Londra. Dietro, che valori ci sono? Allora, i valori più sinceri tra gli esseri umani, cioè è questo gesto dove cadono queste frontiere pur non sapendo chi sei, non sapendo che lingua parli, ma nasce questa voglia e desiderio di abbracciare una persona, cioè di condividere un'emozione, in questo caso lo sport. Quindi non c'è il vincitore, bensì i partecipanti, i protagonisti. È difficile, direi, è quasi banale raccontarlo, ma quanto viverlo. Vito, quante persone ci vogliono per abbracciarsi e racchiudere in questo grande abbraccio, per esempio, lo stadio olimpico dove ci sarà la cerimonia di inaugurazione di Londra 2012? Guarda, ti posso dare i dati teorici, ovvero come l'ho fatto anche l'anno scorso, avevo bisogno di 600 volontari l'anno scorso a Jujuy e si sono presentate 1500 persone. Quindi l'esperienza mi insegna a dire, ti potrei dare i dati teorici, ma vorrei casomai raccontartelo dopo che cosa è successo. Certo. Beh, naturalmente sei benvenuto per farlo. Come possiamo fare per informarci su quello che accadrà e su come sta accadendo, su come sta andando questa tua idea di questo abbraccio olimpico? Bene, allora per questo ho creato questo sito che si chiama Olympic Hug, cioè l'abbraccio olimpico. Hug in inglese, abbraccio HUG, naturalmente, giusto, Olympic Hug. Olympichug.org, dove lì c'è tutto il progetto scritto e tradotto anche in inglese di come verrà svolto questa manifestazione, queste performance. Quello che ancora non ho messo sono le date, perché come ben sappiamo, trattandosi di una manifestazione non ufficiale, dipenderà un po' anzitutto dalla sinergia delle persone, per cui chi vuole informarsi, chi vuole sapere, può andare direttamente sul sito e leggere tutto. Poi prossimamente, si avvicinano le Olimpiadi, cominceranno a venire fuori le date del ritrovo, di incontro, per iniziare a creare questa sorta di movimento, diciamo. Vito, naturalmente tutte queste cose sono grandissime idee, però ci vuole qualcuno che le sostenga anche. Chi potrebbe essere interessato a sostenere questa tua idea, cosa deve fare? Guarda, questo nasce dalla mia testa, ma non è più mio, ma bensì di tutti quelli che appoggiano la causa, questa idea. E quindi lancio un invito a chi e crede nello sport come il fair play piuttosto come un motivo di aggregazione. E quindi invito alle aziende, ai comuni, alla regione, a chi crede in questi principi che io sto portando in giro per il mondo, che ben volentieri ci possiamo incontrare, parlare, discutere e portare questa manifestazione in giro per il mondo. Dacci un attimo, Vito, quelle che sono le prossime tappe, cioè cosa succederà? Bene, io entro il 25 luglio, parto per Londra per iniziare, cioè arrivare e iniziare a lavorare su queste performance che farò. Ovviamente l'abbraccio futbolero ha queste quattro, come si dice, colonne portanti, che è importante dirlo sempre. Ovvero, l'abbraccio futbolero è composto da una parte sociale, ovvero vengono coinvolte le persone in primis, cioè lo sport, che quel legame che unisce le persone, c'è la parte artistica e quella parte del design. Bene, io parto il 25 e se tutto va bene e spero di tornare il 9 settembre. Perché il 9 settembre? Perché non ci sono solo le Olimpiadi, ci sono i Paralimpici, che è il mio sogno, vorrei riuscire a unire anche questi due elementi, no? Le Olimpiadi con i Paralimpici, e secondo me la parte più bella e magari, non magari, forse, è toccare con più mano significativa. Il significativo dei Paralimpici. Quindi il mio sogno sono appunto più un Paralimpico che non l'Olimpiade, perché c'è più dell'umano ancora. Grazie a Vito Arena, ci ha raccontato una storia bellissima di sport e di quello che sta dietro e davanti allo sport, abbraccio olimpico e paralimpico. Allora, abbiamo sentito questo unirsi delle persone nel massimo dell'evento sportivo che vi è al mondo, l'Olimpiade prima e la Paralimpiade poi. Il massimo invece per quanto riguarda il ciclismo è il Tour de France. Piero Augusto, allora, vittoria di Sanchez per distacco, occasione persa per Sagan. Sì, è stata una grande vittoria per il corridore murciano, come hai detto tu, che oggi ha ottenuto la sua quarta vittoria in carriera al Tour de France. La Rabobank, la sua squadra, questa multinazionale olandese, era stata veramente una delle squadre più sfortunate in questo Tour de France. Di 9 corridori ne sono rimasti in corsa 4 e oggi si sono consolati ampiamente con una vittoria bellissima, meritata. Sagan è stato forse fin troppo generoso, ma anche, dobbiamo dire, gli altri 4 compagni di avventura l'avevano ormai bollato, l'avevano ritenuto il più forte, come d'altra parte era, e quindi l'hanno messo un po' in mezzo e tutte le castagne dal fuoco le doveva togliere lui. Alla fine non ce l'ha fatta in un attacco, in un tratto di falso piano, visto che Leon Sanchez è scattato, tutti hanno guardato Sagan a quel punto ha perso l'attimo e il buon spagnolo è andato all'arrivo, però si è consolato intanto con dei punti del traguardo intermedio, con un secondo posto di tappa che hanno portato ancora ad incrementare quasi in maniera definitiva, ormai diciamo che al 95% la maglia verde a Parigi sarà di Peter Sagan, ed è un record perché un ragazzo di soli 22 ananni al suo primo Tour de France che vince 3 tappe e arriva a Parigi con la maglia verde, per lui veramente il Tour è già vinto. C'è già una prima reazione di Sagan che dice: sì, colpa mia, non sono riuscito ad alimentarmi prima, ero rimasto senza gel e zuccheri, non mi aspettavo che Sanchez attaccasse a 12 km dall'arrivo, però lui è molto esperto. Sì, è effettivamente così, si vede anche, si è visto anche chiaramente nel momento in cui Sanchez scatta e Philippe Gilbert, Sandy Casar si voltano per guardare cosa stava facendo Sagan e proprio al boccone in bocca, si stava alimentando, probabilmente era in una crisi di fame e quindi ha perso quei 10 secondi che sono un'eternità. A livello di seconda c'è stata anche una tappa particolare, perché nel finale il gruppo, oggi diciamo che è stata, se ieri è stata la festa dei francesi, oggi è stata la festa praticamente di tutto il gruppo. La vera gara l'hanno fatta solamente questi 5 corridori che sono arrivati con un quarto d'ora d'anticipo. Invece il gruppo maglia gialla, quello di Bradley Wiggins, se la sono presa comoda e sono andati su col loro passo, se non che sull'ultima salita di giornata, che era veramente un muro piuttosto selettivo, qualche buon tempone deve aver buttato delle puntine da disegno, sia sì, nell'ultimo tratto in salita che in discesa, tant'è vero che quello più sfortunato che ha fatto incetta di forature, ben 4, è stato proprio il vincitore del Tour de France dell'anno scorso, Cadel Evans, che attualmente è quarto in classifica generale. Evans si è fermato una prima volta proprio su al Gran Premio della Montagna e nessuno dei suoi aveva una ruota di scorta, almeno aspettato lì 40 secondi, 40-50 secondi, fin quando non è arrivato un suo compagno di squadra che gentilmente gli ha dato la sua ruota posteriore. Dopo, lungo la discesa, si è dovuto fermare altre 3 volte, grande panico. Cosa è successo? Che Brady Wiggins già aveva avvertito, perché nella fase finale probabilmente Evans aveva bucato a 250 metri dal Gran Premio della Montagna, ha sentito proprio lo scoppio del Palmer, si chiamano così questi copertoncini che usano i corridori, e quindi è andato in testa e ha fatto proprio il gesto a tutti, anche ai suoi compagni di squadra, di rallentare, cioè non era giusto attaccare in quel modo uno che era in difficoltà. È stato un segno di grande rispetto nei confronti di un vincitore del Tour de France e della corsa, un gesto da grande gentleman che ha ricordato, non è la prima volta che accadono questi gesti, io me ne ricordo uno ancora più clamoroso, quando Lance Armstrong cadde perché il suo manubrio andò a conficcarsi in un cappellino di un bambino al bordo strada e Jan Ullrich non lo attaccò. Eravamo a Luzzardiden in quell'occasione e lì era veramente una fase calda della corsa, perché erano in fuga in 3, se non mi ricordo male c'è anche Iban Mayo, e erano 3 corridori. Armstrong cade e Jan Ullrich lo aspettò, correva con la maglia bianchi. Tra l'altro mi ricordo che Felice Gimondi, che era appunto testimonial di questo grande storico marchio di biciclette italiano, non accettò moltissimo questo gentleman agreement tra Ullrich e Lance Armstrong. Oggi si è ripetuta una cosa analoga, non era così scoppiata la corsa, anzi il gruppetto dei migliori era ancora lì tutto in fase di turistica, diciamo, però nessuno aveva voglia di attaccare in quel modo un corridore colpito dalla sfortuna, se non uno, un corridore che piace molto ai francesi, che si chiama Pierre Rolland, che invece è stato l'unico che se n'è assolutamente così fregato, diciamo, delle indicazioni della maglia gialla e ha attaccato. A quel punto si è visto il gruppo maglia gialla che si è messo tutto in testa per andare a riprendere Pierre Rolland, appena l'hanno ripreso, l'hanno guardato in malo modo, il gruppo si è nuovamente allargato, quindi gli hanno dato una lezione e hanno aspettato che Cadel Evans rientrasse nel gruppo di testa e poi hanno tagliato il traguardo tutti assieme. Quindi oggi una tappa sotto l'aspetto puramente agonistico ha detto poco. C'è stato questo episodio delle puntine da disegno della grande infatti fortuna. Questo divertente però anche pericoloso, perché effettivamente poteva costare caro. E purtroppo non è la prima volta, nelle corse ciclistiche, sia al Giro d'Italia che al Tour de France, ogni tanto i tifosi, che non tutti sono propriamente sportivissime, devi anche pensare che ce ne sono veramente una montagna qua al Tour, e moltissimi seguono il Tour de France, sono tanti anche ragazzi, questo è l'aspetto anche positivo, però aspettano 5-6 ore l'arrivo della corsa, immagino, e nel frattempo per ritagliare così, per ingannare il tempo, bevono veramente pinte di birra, per dirla alla Brady Wiggins, e quando arrivano i corridori sono disposti a farne di ogni, e oggi probabilmente hanno esercitato questa bella Pier, cosa ci aspettiamo domani, ma soprattutto ancora quel mercoledì, giovedì saranno le 2 giornate importanti per questo Tour. Eh sì, assolutamente sì, diciamo che questo Tour de France ha 3 giornate, diciamo 4, perché sennò i francesi potrebbero richiamarmi all'ordine, perché Sacra è la giornata di domenica dove si celebrerà il Tour, certo, a Parigi, certo. Però i giorni e saremo naturalmente in diretta qui su Radio 24 per viverla. Però i giorni che non vanno assolutamente persi sono mercoledì, perché ricordiamo che domani c'è una tappa, diciamo, interlocutoria adatta ai velocisti, martedì secondo e ultimo giorno di riposo, mercoledì incominciano i Pirenei e abbiamo Sua Maestà il Tourmalet con poi la Spen e l'arrivo a Bagnères de Luchon, e poi il giorno dopo abbiamo un arrivo proprio in salita che è piuttosto insidioso. Ecco, queste 2 tappe definiranno assolutamente questo Tour de France, perché la cronometro che resterà sono 53 chilometri, si correrà sabato, questo lo sappiamo già, se non succede niente Brady Wiggins ha dalla sua parte un jolly da giocarsi alla grandissima, quindi i vari Evans, i vari Van Garderen, ma anche e soprattutto il nostro Vincenzo Nibali, se vogliono ribaltare la situazione devono assolutamente sfruttare al meglio queste due tappe pireneiche per mettere in difficoltà sia Brady Wiggins che il suo compagno di squadra Chris Froome. Grazie allora, grazie Pier Augusto Saggi che tutti i giorni ci racconta questo Tour de France, grazie a Margherita Ina in redazione, naturalmente a Roberto Scaltritti in regia, Tempo di Sport torna domani con la voce dello sport di Radio 24, Carlo Genta sarà con voi per raccontarvi il primo giorno di Ibrahimovic a Parigi.